così. Nel Faubourg Saint-Germain, le posizioni apparentemente inespugnabili del duca e della duchessa di Guermantes, del barone di Charlus, avevano perduto la loro inviolabilità, come ogni cosa cambia a questo mondo, sotto l'azione di un principio interiore, cui nessuno aveva pensato. Nel signor di Charlus, l'amore per Charlie, che l'aveva reso schiavo dei Verdurin, seguito dal rimbambimento. In Madame de Guermantes, la passione del nuovo e dell'arte. Nel signor di Guermantes, un amore esclusivo, come ne aveva già avuti altri nella sua vita, ma reso più tirannico dalla debolezza dell'età, e alle cui debolezze la severità del salotto della duchessa, dove il duca non compariva più e che, d'altronde, non funzionava quasi più, non poteva più opporre la sua smentita, il suo riscatto mondano. Così cambia il volto delle cose di questo mondo. Così il centro degli imperi e il catasto delle fortune e la mappa dei prestigi, tutto ciò che sembrava definitivo, è continuamente rimescolato e gli occhi di un uomo che abbia vissuto possono contemplare il mutamento più completo, proprio là dove gli sembrava più impossibile. Ogni tanto, sotto lo sguardo dei quadri antichi raccolti da Swann, in una sistemazione da collezionista che completava il carattere vecchio e fuori moda della scena, con quel duca così restaurazione e quella cocotte talmente secondo impero, la signora in rosa, avvolta in una delle vestaglie che piacevano a lui, lo interrompeva con qualche battuta frivola. Lui taceva di colpo e la trafiggeva con un'occhiata feroce. Forse si era accorto che anche lei, come la duchessa, diceva a volte delle sciocchezze. Forse, in un'allucinazione senile, credeva che a troncargli la parola fosse stata una battuta intempestiva di Madame de Guermantes. E si credeva a Palazzo Guermantes come quelle belve incatenate che si figurano per un attimo d'essere ancora libere nei deserti africani. E alzando bruscamente la testa, con i suoi piccoli occhi tondi e gialli che avevano il fulgore degli occhi delle belve, le lanciava uno dei suoi sguardi che qualche volta, nel salotto di Madame de Guermantes, quando la duchessa parlava troppo, mi avevano fatto tremare. Così, per un istante, il duca fissava l'audace signora in rosa, ma lei, tenendogli testa, non distoglieva i suoi occhi. E dopo alcuni istanti che sembravano lunghi agli spettatori, la vecchia belva domata, ricordandosi d'essere non già libera nel salotto della duchessa, in quel Sahara di cui lo stuoino sul pianerottolo segnava il confine, ma da Madame de Faucheville, nella gabbia del Jardin des Plantes, ritirava fra le spalle la testa dalla quale pendeva ancora una folta criniera di cui non si sarebbe saputo dire se fosse bionda o bianca, e riprendeva il suo racconto. Sembrava non avesse capito ciò che Madame de Faucheville aveva voluto dire e che d'altronde di solito non aveva molto senso. Le permetteva di invitare degli amici a pranzo con lui, con una mania che gli veniva dai suoi vecchi amori, che non poteva stupire Odette, abituata alla stessa cosa con Swann, e che mi commuoveva ricordandomi la mia vita con Albertine. Esigeva che tutte quelle persone si congedassero di buon'ora per poter augurare lui per ultimo la buonanotte a Odette. Inutile dire che, appena lui se n'era andato, lei andava a raggiungere altri. Ma il duca non lo sospettava, o preferiva fingere di non sospettarlo. La vista dei vecchi s'abbassa così come s'affievolisce il loro udito, s'oscura la loro perspicacia, la stanchezza fa venir meno la loro vigilanza. E a una certa età è in un personaggio di Molière, e nemmeno nell'olimpico amante di Alcmena, ma in un risibile geronte che inevitabilmente si trasforma Giove. Del resto, Odette ingannava il signor di Guermantes così come ne aveva cura, senza grazia, senza grandezza. Era mediocre in questa parte come in tutte le altre. non che la vita non gliene avesse molte volte assegnate di belle, ma lei non le sapeva recitare. E di fatto, ogni volta che volli poi vederla, non ci riuscii, perché il signor di Germain, volendo conciliare a un tempo le esigenze dell'igiene e quelle della gelosia, le permetteva solo feste diurne, e anche quelle a condizione che non fossero balli. Questa reclusione cui era costretta me la confessò lei stessa con franchezza per diverse ragioni. La principale era che si figurava, sebbene avessi scritto solo qualche articolo e pubblicato qualche saggio, che io fossi un autore noto al punto da esclamare ingenuamente, ricordando i tempi in cui andavo al viale delle Acace per vederla passare e più tardi a casa sua: ah, se avessi immaginato che un giorno sarebbe stato un grande scrittore! Ora, poiché aveva sentito dire che gli scrittori stanno volentieri in compagnia delle donne per documentarsi, per farsi raccontare delle storie d'amore, ridiventava con me semplice cocotte allo scopo di interessarmi. Mi raccontava: una volta, pensate, c'era un uomo che s'era preso una cotta per me e che anch'io amavo alla follia. Vivevamo una vita divina. Doveva fare un viaggio in America, io dovevo andare con lui. Il giorno prima della partenza pensai che sarebbe stato più bello non lasciar diminuire un amore che non poteva restare sempre a quell'altezza. Ci fu un'ultima sera in cui lui era convinto che sarei partita. Fu una notte folle. Provavo accanto a lui infinite gioie e la disperazione di sentire che non l'avrei più rivisto. Il mattino stesso ero andata a regalare il mio biglietto a un viaggiatore che non conoscevo. Avrebbe voluto comprarlo. Gli risposi: «No, mi rendete già un grande servizio prendendolo. Non voglio denaro». Un'altra storia. Un giorno ero ai Champs-Élysées. Il signor di Broté, che avevo incontrato una sola volta, si mise a guardarmi con una tale insistenza che mi fermai e gli chiesi come si permetteva di guardarmi in quel modo. Mi rispose: «Vi guardo perché avete un cappello ridicolo». Era vero. Era un cappellino con delle violette. La moda d'allora era orribile, ma io ero su tutte le furie. Gli dissi: «Non vi permetto di parlarmi così». Si mise a piovere. Gli dissi: «Vi perdonerei se aveste una carrozza». «Bene, si dà il caso che ce l'abbia, e vi porterò a casa». «No, accetto la vostra carrozza, ma non voi». Salì in carrozza e lui se ne andò sotto la pioggia. Ma la sera si presenta a casa mia. «Ci siamo amati follemente per 2 anni. Venite a prendere una tazza di tè a casa mia. Vi racconterò come ho conosciuto il signor di Faucheville. In fondo», aggiunse in tono malinconico, «ho passato la vita in clausura perché tutti i miei grandi amori sono stati con uomini che erano terribilmente gelosi di me. Non parlo del signor di Faucheville, perché lui in fondo era un mediocre. Io non ho veramente amato che persone intelligenti. Ma vedete, Swan era geloso quanto lo è il povero duca. Per questo qui mi privo di tutto perché so che a casa sua non è felice. Per Swan era perché lo amavo alla follia. E penso che si possono ben sacrificare i balli e la società e tutto il resto pur di dare gioia o almeno evitare delle sofferenze a un uomo che ci ama. Povero Charles, era così intelligente, così seducente, proprio il tipo d'uomo che mi piaceva». E forse era vero. C'era stato un tempo in cui Swan le era piaciuto, precisamente quello in cui lei non era il suo tipo. A dir la verità, il suo tipo non lo era mai stata, neanche più tardi. Eppure l'aveva tanto amata allora e così dolorosamente. Più tardi s'era sorpreso di questa contraddizione. contraddizione che non deve apparirci tale se pensiamo come è alta nella vita degli uomini la proporzione delle sofferenze provocate da donne che non erano il loro tipo. Questo, forse, ha più di una causa. Prima di tutto, poiché non sono il nostro tipo. All'inizio ci lasciamo amare senza amare e lasciamo così che attecchisca sulla nostra vita un'abitudine che non si sarebbe formata con una donna del nostro tipo, la quale, sentendosi desiderata, si sarebbe resa preziosa. Non ci avrebbe accordato che in rari appuntamenti non si sarebbe installata in tutte le ore della nostra vita, in quel modo che poi, se viene l'amore e lei ci viene a mancare per un litigio, per un viaggio durante il quale ci lascia senza notizie, non strappa in noi un solo legame, ma mille. In secondo luogo, questa abitudine è sentimentale, perché alla sua base non c'è un grande desiderio fisico. E se nasce l'amore, il cervello lavora molto di più. C'è un romanzo al posto di un bisogno. Delle donne che non sono il nostro tipo, non diffidiamo. Lasciamo che ci amino. E se poi le amiamo 100 volte di più delle altre e senza nemmeno avere con loro la soddisfazione del desiderio appagato. Per queste ragioni e parecchie altre, il fatto che proviamo i dolori più grandi con donne che non sono il nostro tipo non dipende solo dall'irridente destino che realizza sempre la nostra felicità nella forma che meno ci piace. Una donna che sia il nostro tipo è raramente pericolosa, perché non vuol saperne di noi. Ci accontenta, ci lascia presto, non si installa nella nostra vita. E ciò che è pericoloso e ci procura sofferenze in amore non è la donna in se stessa. È la sua presenza di tutti i giorni. È l'essere in ogni momento curiosi di quello che fa. Non è la donna, è l'abitudine. Fui tanto vile da dire a Odette che era gentile e nobile da parte sua, ma sapevo quanto fosse falso e come la sua franchezza fosse intrecciata di menzogne. Via via che mi raccontava le sue avventure, pensavo con spavento a tutto ciò che Swan aveva ignorato e di cui avrebbe tanto sofferto, perché su quella creatura aveva fissato la sua sensibilità e intuiva sino alla certezza, semplicemente dai suoi sguardi, ogni volta che lei vedeva uno sconosciuto o una sconosciuta che le piacevano. In fondo, Odette lo faceva solo per darmi quelli che credeva soggetti di novelle. Si sbagliava. È vero che aveva abbondantemente rifornito, da sempre, le riserve della mia immaginazione, ma in modo assai più involontario, grazie a un atto che io stesso emanavo, traendo da lei, a sua insaputa, le leggi della sua vita. Il signor di Germain teneva in serbo i suoi fulmini solo per la duchessa, sulle cui libere frequentazioni Madame de Faucheville non mancava di attirare la sua irritata attenzione. La duchessa, così, era molto infelice. È vero che il signor di Charlotte, al quale una volta ne avevo parlato, sosteneva che i primi torti non erano di suo fratello, che la leggenda di purezza della duchessa era fatta in realtà d'un numero incalcolabile di avventure abilmente dissimulate. Io non ne avevo mai sentito parlare. Per quasi tutti, Madame de Germain era una donna completamente diversa. L'idea che fosse stata sempre irreprensibile dominava le menti. Fra queste due idee non ero in grado di decidere quale fosse conforme a verità, verità che quasi sempre i 3/4 delle persone ignorano. Ricordavo bene certi sguardi azzurri ed errabondi della duchessa di Germain nella navata di Combray. Ma nessuna delle due idee ne riceveva una vera smentita, e sia l'una che l'altra potevano dar loro un significato diverso e altrettanto accettabile. Nella mia follia, ragazzo, li avevo presi per un istante come sguardi d'amore rivolti a me. Poi avevo capito che erano soltanto gli sguardi benevoli d'una sovrana, simile a quella delle vetrate della chiesa, per i suoi vassalli. Bisognava credere adesso che ad essere vera fosse la prima idea e che se poi la duchessa non mi aveva mai parlato d'amore era stato perché con un amico di sua zia e di suo nipote aveva temuto di compromettersi più che con un ragazzo sconosciuto incontrato per caso nella chiesa di Saint-Hilaire a Combray.